La cioccolata è un alimento derivato da semi della pianta di cacao e preparato a partire dal burro di cacao, parte grassa dei semi di cacao, con aggiunta di polvere di semi di cacao. Inchia quanto cacao! Alcuni studi sembrano confermare che il consumo frequente di cioccolato possa condurre ad una particolare forma di dipendenza. Infatti, quando la si gusta, provoca una sensazione di benessere spesso ignorato, ma che, se badato al punto giusto, aumenta il senso dell'umorismo e ci rende più simpatici e divertenti. Buona cioccolata, buon colata. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, buona cioccolata, buon colata. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, buona cioccolata, buon colata. Buona cioccolata, buon colata. Buona cioccolata. La cioccolata. La cioccolata, cacao.